Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Prevede un tempo inferiore rispetto ai 3 anni e che sono 12 mesi dal giorno in cui si deposita la domanda di separazione per tutte le coppie. 12 mesi che scenderanno a 9 qualora non ci siano figli minori e qualora la coppia scelga la procedura consensuale. Ho avuto l'ultima ragazza a 17 anni, poi il mio corpo ha smesso di cooperare. So cosa fare, cioè a te, ma io non riesco più a sentire. Non riesco proprio a... Puoi toccarti? D'accordo. Ti va un po' di musica? Voi direte che c'entra un discorso sul divorzio breve e l'assistente sessuale che con un ragazzo disabile gli insegna ad avere anche piacevolezza dal suo corpo che ha dei problemi rispetto alla norma. C'entra perché venerdì 13 e sabato 14 accadrà una cosa abbastanza singolare a Roma. E mi piace parlarne questa mattina proprio perché ne vedo l'aspetto eretico e scommetterei che qualcuno avrà molto da dire prima ancora questa cosa avvenga. Normalmente, cioè apparentemente è un semplice convegno, che avverrà a Residence di Ripetta il venerdì 13 e sabato 14, organizzato dall'Associazione Nazionale degli Avvocati Matrimonialisti. Il titolo è Diritti della persona, quale bioetica, quale giustizia, quale futuro. Vedete, beh, un convegno come tanti, che noia. Saranno degli avvocati che si riuniscono e parlano delle loro cose. No, hanno messo insieme questi avvocati. È singolare che lo facciano avvocati, che nella lista nera delle persone detestabili sono quasi in testa. Gli avvocati sono quelli che si approfittano, sono quelli che hanno sempre un'occasione di lucro nelle dissidi altrui. Ma in questo caso gli avvocati matrimonialisti italiani, non so se per un seme di follia o per quale altra ragione, hanno messo insieme tutti gli argomenti più indicibili e più spiacevoli di cui la società spesso non vuole parlare. Si va appunto dal matrimonio, dalla messa in dubbio della sacralità per legge, per diritto, per stato del matrimonio. Due persone vogliono stare assieme, benissimo, facciano un contratto per stare assieme. Va alla considerazione del diritto anche del fine vita. Posso io decidere quando la mia dignità mi impedisce di continuare a essere considerato un essere umano e quindi voglio dare fine alla mia vita? Va al matrimonio fra persone non omogenee, nel senso secondo quello che è il comune pensare, matrimonio tra omosessuali, matrimonio fra coppie che non sono assortite secondo il biblico antico principio. Ma si va ancora oltre, si entra in un campo che a me riguarda molto personalmente, un campo che non si parla mai in termini di diritto. Quando si ha un figlio disabile o quando si è disabili, quanto il diritto ci tutela? Quanto ci tutela anche nel nostro lecito desiderio di avere comunque una persona con cui scambiare delle piacevolezze di tipo fisico? In Italia l'assistenza sessuale è qualcosa che si mormora, si sottende, si sorride, ci si dà di gomito, si sai, è una specie di prostituzione che passa sotto un aspetto clinico, ma non esiste un piffero di legge che definisca e capisca come fa una persona disabile se vuole avere un rapporto sessuale. Poi quando uno ha un figlio disabile, il vero grande cruccio è proprio quello di dire cosa accadrà a mio figlio quando io non ci sarò più? Chi se ne occuperà? Cosa posso lasciare di tranquillo, sicuro, certo, per cui anche dopo morto so che mio figlio avrà lo stesso tipo di vita che posso, nei miei limiti e nelle mie possibilità, permettermi io di fargli vivere? Beh, tutto questo messo insieme in un convegno non l'avevo mai visto. Gianettore Gassani, buongiorno. Buongiorno. Questo sarà forse il passo decisivo della tua carriera? O la fine. Ecco, ma come ti è venuto in mente fare una cosa così folle? Ma è venuto in mente... Non lo dico per piaggeria, lo sai, è che mi sorprende veramente, dico, in questo momento in cui sembra che ci sia un magico equilibrio fra i sacri poteri, con un papa buonissimo, tranquillissimo, che poi alla fine dice le stesse cose degli altri papi, è un potere politico che in fondo è una bella pennellata di buonismo democristiano che sembra che sta bene a tutti, tu vai a fare qualcosa che sembra risvegliare dei furori che tutti avevano subito. Ma l'abbiamo condiviso insieme a tanti avvocati e crediamo appunto che gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e diritto delle persone non siano soltanto quelli che si occupano di separazione e divorzi, ma della tutela dei diritti di tutti, anche in linea con le convenzioni internazionali. Era arrivato il momento di parlare di cose scottanti, di metterci la faccia. Non abbiamo ancora assunto una posizione ufficiale, ma è importante almeno costruire l'occasione per parlarne. Perché nel nostro paese a volte anche il solo parlare di certi tabù significa essere quasi scomunicati per legge. Invece noi abbiamo voluto fortemente parlare di eutanasia, testamento biologico. Provocazione medicalmente assistita, attenzione, la Corte Costituzionale sta per emettere la sentenza, storica immagino. Poi parliamo appunto di nozze di persone dello stesso sesso, adozioni di bambini da parte di persone dello stesso sesso, e appunto il tema che secondo me è più importante, quello meno conosciuto, è appunto la tutela dei minori portatori di handicap psichico e la loro sessualità e soprattutto il loro futuro quando i genitori non ci saranno più. Bisogna parlarne, bisogna parlare dell'assistenza sessuale di ragazzi che spesso hanno avuto sesso dalle sorelle e dalle mamme, perché questo è il vero problema. Noi facciamo finta di non vedere le cose perché i veri talebani del mondo siamo noi. Ora vedremo che cosa emergerà da questo congresso, ci saranno varie posizioni, abbiamo voluto ovviamente... Saranno rappresentate anche le posizioni, diciamo, conservatrici rispetto a una lettura nuova su questi problemi? Assolutamente sì, perché voglio dire, ci deve essere sempre il contraddittorio, figuriamoci se gli avvocati poi non erano attenti al contraddittorio, ma bisogna parlare, bisogna arrivare poi a un documento finale. Il congresso appunto si terrà venerdì e sabato 13 e 14 giugno alla Esenza di Ripetta, praticamente a Piazza del Popolo. Per chi vuole prendere conoscenza del programma può accedere al sito www.ami-centraleavvocati.it, ma basta andare su internet e scrivere avvocati matrimonialisti ed è facile poi accedere al sito. Ed è molto importante che vengano anche persone che non fanno gli avvocati, anzi, se andiamo a guardare sui 34 relatori, circa 20 non sono avvocati, cioè sono medici, genetisti, psichiatri, psicologi, sessuologi, c'è di tutto. Perché tu vuoi dare degli strumenti professionali in più anche ai tuoi colleghi. Di fronte a argomenti come questo, io ti pongo subito quello che a me naturalmente sta più a cuore, poi li possiamo toccare tutti. Intanto chiamo il pubblico raccolta 800240024. Trovate che gli argomenti di cui stiamo parlando, che sono generalmente una sorta di ridefinizione totale in chiave di diritto di tutto quello che ha sempre regolato i rapporti tra gli esseri umani. Esseri umani di ogni tipo, non considerando che l'essere umano appartiene soltanto a una categoria omogenea. Anche gli esseri umani che hanno delle diversità di comportamento, diversità di porsi verso il mondo, diversità di atteggiamento e di punto di vista. Per quanto riguarda, il numero è 800240024, per quanto riguarda la parte finale, l'ultimo giorno di convegno, che è quello che su cui o trovo ci sia maggiore lacuna. Oggi una persona che ha un figlio o deve gestire una persona con handicap, che naturalmente a un certo punto, quando raggiunge la maggiore età, viene in qualche maniera tolto a totale giurisdizione della famiglia. Cosa succede in quel momento? Beh, ci sono grossi problemi. Quando muoiono i genitori non sappiamo francamente come fare a tutelarli. Per cui abbiamo organizzato un congresso dove si parla di trust familiare. E cos'è il trust familiare? Beh, è un contratto praticamente di origine britannica. Sappiamo che il trust in Italia non è ancora particolarmente in voga, anzi in alcuni casi viene addirittura un'accezione negativa. Sì, assolutamente. È difficile spiegarlo in pochi secondi, ma è un contratto attraverso il quale si organizza economicamente a livello patrimoniale la vita di una persona. In questo caso di un portatore di handicap che non può chiaramente esercitare appieno i propri diritti, in modo tale che dal punto di vista economico e patrimoniale possa sempre avere una certa sicurezza e ovviamente non può disporre di quelle somme di denaro. C'è qualcuno che lo farà per lui a seconda poi delle esigenze che mano a mano si presenteranno. Però lo trust familiare è un illustre sconosciuto, la gran parte degli avvocati, anche della mia associazione, non credo che conoscono appieno questo istituto. Normalmente come si comportano le persone quando affrontano? Naturalmente non ci pensano, lo so, perché si tende a procrastinare il più possibile questo pensiero. Però a un certo punto, quando il figlio aggiunge una maggiore età, naturalmente tu devi iniziare tutto un procedimento per cui ci sarà un giudice tutelare comunque che controllerà come tu gestisci questo figlio quando non ha possibilità di essere autonomo nei suoi pensieri. Parlo di disabilità soprattutto di tipo psichico. Ma di solito avviene attraverso un tutore. Un tutore che poi alla fine dovrebbe occuparsi della vita di queste persone, però è un atto di fiducia. È un atto di fiducia, non è la stessa cosa. È vero che poi è sempre sotto il controllo della giurisdizione, però non è la stessa cosa di un trust familiare se fatto a un certo livello. E dobbiamo pure parlare di questo, perché c'è anche chi verrà a dire che il trust familiare non è una garanzia. Per cui vogliamo capire bene, e lo dico da chi ignora francamente il trust, capire esattamente in che cosa può consistere, perché di ragazzi portatori di handicap fisico e soprattutto psichico ce ne sono tantissimi e non sappiamo francamente come tutelarli e come tutelarli in maniera moderna rispetto agli altri paesi d'Europa. Quindi diciamo si comincia a scrivere su un foglio bianco, su un foglio su cui ancora nessuno ha scritto. Mi piacerebbe capire se qualcuno degli ascoltatori può chiamare all'800024. Ci sono avvocati molto bravi che se ne intendono. 0024 anche... ha già affrontato questo tipo di problema e può già portare diciamo un suo contributo di esperienza. Ma andando avanti rispetto a diciamo quest'area del convegno, poi toccheremo anche le altre, rispetto alla sessualità, noi abbiamo spesso parlato di assistente sessuale, ma molte volte il vero problema è proprio quello di avere un riconoscimento giuridico di questa persona, perché non siano degli espedienti, si entra nelle maglie grigie, si trova la persona che in realtà fa un altro mestiere o chi lo fa non può dirsi farlo. Anche su questo vi sentite di prendere una posizione o di aprire diciamo la possibilità di riflettere? Ma la posizione noi l'assumeremo al congresso. Se devo parlare di una mia posizione personale, quindi non a nome dell'associazione, devo dire che non avevo assolutamente niente in contro, anzi sostengo il diritto alla sessualità di tutti e quindi non vedo per quale motivo non dei ragazzi o degli uomini o delle donne che hanno dei deficit psichici, insomma degli handicap di carattere psichico. All'estero l'assistenza sessuale mi pare sia stata già organizzata. Mi pare anche di aver letto dai tuoi scritti e di aver sentito i tuoi discorsi che la sessualità per questi ragazzi nel nostro paese è gestita dalle mamme e dalle sorelle da secoli. Sì, diciamo esiste questa cosa non detta, nessuno ti dirà mai, ma è chiaro quando c'è una persona adulta e c'è una certa esigenza, lo dicono, abbiamo chiamato una collega, ha scritto un romanzo sotto forma di romanzo, ha fatto un'inchiesta molto seria fatta in Svizzera, è venuto fuori questo, che è un problema che poi alla fine in maniera molto vergognosa e non mi sembra nemmeno razionalmente la migliore se ne occupano le madri. Sentiamo Maria Rosaria, prima ascoltatrice, buongiorno. 800240024. Sì. Sì. Io non so, gliela faccio questa domanda che ho avuto sempre per la testa, oggi avevo la possibilità di chiamare e ho chiamato. Sono una signora di 75 anni, sposata da 50, so benissimo che il matrimonio è un'istituzione bellissima ma è in crisi. E basta guardarsi intorno, vicino, lontano e si capisce. Perché io mi dico... e i gay che puntano al... perché non fare primariamente le unioni civili? Qual è la... perché devono andare incontro al matrimonio quando il matrimonio è un tipo di convivenza che quasi... Cioè la domanda stesso... qual è? Sintesi, la domanda così. Perché non puntare alle unioni civili e lasciare il matrimonio per un secondo tempo? Gianetto, ragazzi. Ma io penso che questo sarà uno dei passaggi, sì. Però perché non parlare del matrimonio tra persone dello stesso sesso quando i nostri dirimpettai francesi hanno fatto un referendum per il passato? Stiamo parlando di un paese molto vicino al nostro, come gli spagnoli e come gli olandesi e come in molti paesi degli Stati Uniti, cioè non vedo perché non parlarne. Poi ovviamente la tutela delle coppie di fatto, eterosessuali e omosessuali, è indubbiamente un gradino intermedio, ma perché bisogna parlare di tutto, anche del matrimonio. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Dunque io prendo un momento le distanze dal poter discutere in 30 secondi. Allora senti Francesco, tu vuoi parlare di disabilità, sulla disabilità è la tua domanda. Sì, allora fermati un attimo, diamo subito il traffico, visto se... poi hai più di 30 secondi, fra proprio un istante appena passato il traffico porrai la tua domanda e allargheremo questo tipo di problema tra i tanti che tratterà questo convegno. Melog, cronache meridiane. Stanno chiamando molti ascoltatori perché hanno capito che stiamo mettendo le mani in un vespaio. Parlo del convegno diritti della persona, quale bioetica, quale giustizia, quale futuro, che si farà, se si farà, venerdì 13 e sabato 14 alla residenza Ripetta di Roma, organizzato dagli avvocati, associazione avvocati matrimonialisti italiani, che vanno a mettere le mani in tutto ciò c'è di più spiacevole, più indicibile, di più fastidioso per quello, su quello che riguarda la famiglia, il diritto, i rapporti tra le persone. Lo fanno proprio gli avvocati e questo non può non essere sottolineato. Ci eravamo interrotti con Francesco, visto che uno dei temi riguarda proprio la disabilità. Nessuno ha mai in maniera così decisa, così provocatoria, voluto trattare in un convegno di avvocati il tema della disabilità riguardo al diritto. Francesco. Sì, dalle mie parti, io chiamo dalla Calabria, si dice, e lo dico in dialetto perché è bello che l'Italia possa essere accomunata anche nel dialetto, la butto un gridaro di uno, tradotto significa la persona sazia non ne immagina minimamente cosa prova la persona che viceversa sazia non è. E allora sulla disabilità io credo che in una società sempre più spartana, che guarda sempre in modo attento e accanito alla fisicità, alla perfezione del fisico, ci sia poco allenamento a quello che è invece una naturale propensione dell'essere umano, che nasce con una possibilità di poter essere, come amiamo definirlo, diversamente abile. E quindi ci vorrebbe un po' più di allenamento, io ritengo, da parte di quelle persone che pensano di non poter essere mai toccate da eventi di questo tipo. Lei dice una cosa giusta, Francesco, però dividiamo il tema, sennò ci fermiamo sempre sulle dissertazioni di tipo generale. Noi oggi parliamo di diritto, qualcosa di diverso. Diamo già per scontato che esista un'attenzione su queste cose qua. Però servono anche delle leggi, serve del diritto. Se la persona disabile deve essere tutelata sul suo futuro, quando le persone che l'hanno messa al mondo e l'hanno sostenuto non ci saranno più, è questione di diritto. Ci vuole una legge che definisca cosa devono fare per la famiglia per tutelarla. Quando una persona disabile ha necessità di esercitare il suo diritto anche alla sessualità, c'è una legge che permetta che ci siano persone che si occupino di questo. Nerina, buongiorno. Buongiorno. Io prima, ascoltando la trasmissione, volevo intervenire sulla fecondazione assistita, perché sono entrata in questo tunnel 17 anni fa e ho figli meravigliosi prima della legge 40. E quindi sono molto sensibile a questo tema. Però poi mi dicevo, ma perché ognuno pensa al suo pezzettino? Noi che abbiamo fatto la fecondazione assistita, abbiamo la nostra associazione, ci battiamo contro la legge 40, i genitori dei disabili perché hanno un figlio disabile si battono perché capiscono i loro diritti, i gay si battono, uniamoci perché i diritti sono di tutti. Io... E solo, è vero, diceva l'ascoltatore di prima, nessuno pensa di esserne toccato, invece alla fine, per un motivo o per l'altro, non parliamo dell'eutanasia. Lei riassume il concetto che stiamo dicendo questa mattina. È chiaro che quando uno c'ha un problema imperlente, radicale, che coinvolge la sua famiglia, la sua emotività, la sua vita, per lui è il primo problema. Ma questo convegno, per questo questa mattina faccio qualcosa che possa sembrare una promozione, ma non è che lo promuovo, dico è la prima volta che vedo messi tutti insieme i problemi individuali che rendono la vita impossibile a tante persone. Gianetto Regassani. Esattamente così. Parlare insieme nello stesso giorno, ogni due giorni, di eutanasia, procreazione assistita, nozze degli omosessuali, adozioni degli omosessuali, significa sfidare dei totem, dei dogmi nel nostro paese. Invece il problema è un altro, il problema bisogna parlare. Poi magari dopo il congresso, sentendo le parti, uno può anche farsi un'idea, può anche essere contro tutto, ma può anche diventare a favore di tutto. Bisogna parlare, in questo paese bisogna essere democratici, affrontare i problemi. Questo è il mio punto di vista. Ecco, io infatti non avallavo una conclusione ideologica. Io dico, finalmente qualcuno dice parliamo di tutto. Marta, buongiorno. Buongiorno. Sì. Dunque, io ho 76 anni, ho un figlio, ex ingegnere, chiamiamolo così, elettronico in California, residente, italiano residente all'estero, sposato, che ha avuto una emorragia cerebrale, attualmente ricoverato ormai da 3 anni in un centro di neuroskills in Bakersfield, in California. Ora, ultimamente ho sentito che la moglie vorrebbe separarsi, divorziare, perché giustamente lei è più giovane, questo ragazzo purtroppo gli sono rimasti dei difetti che cercano di curare, però insomma non è più quello di prima. Noi abbiamo cercato di contattare qualche avvocato qua per sapere che cosa possiamo fare noi per lui, che nel momento in cui la moglie si separasse lui rimane là da solo. Gianetto, riesce a dare una risposta alla signora velocemente? Poi credo che è complessa la questione, in termini di principio. Complessa e molto complessa. La signora può chiedere la separazione, nonostante questa tragedia, può farlo. Quindi la legge in questo momento non dà questa tutela ulteriore alla persona handicappata? No. E quindi, signora, le conviene iniziare, secondo me, una battaglia passo per passo per vedere quali sono poi le maniere... A quale tipo tipologia di avvocati ci si può rivolgere oltretutto? Perché qua tutti dicono che non sono competenti sulle leggi. Questo può dirlo italiane, lo so, americane. Di solito, ma questo è negli Stati Uniti? Sono negli Stati Uniti, ma sei sposato in Italia con una persona italiana. Sì, però se sono residenti negli Stati Uniti da almeno 12 mesi vige poi la giurisdizione statunitense. Per la quale noi come genitori, io come madre non ho nessun diritto. No, no. Ecco, questo lo so benissimo. Perciò per tutelare questo uomo... Deve chiamare un matrimonialista americano come si deve, che non sia uno che si occupa di parafanghi o sfratti e che sia un grande avvocato matrimonialista che possa eventualmente tutelare i diritti di suo figlio se ha voglia di prendersi questo caso, perché poi non tutti gli avvocati amano prendersi questi casi. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Questo, Gianetto, visto siamo in conclusione, è uno dei casi, è un caso limite naturalmente. Terribile. In cui però, come vedi, serve sempre una risposta, comunque una risposta. Beh, ma neanche in Italia. La signora non sa nemmeno a che tipo di avvocato rivolgersi, se deve essere un avvocato americano o un avvocato italiano. Quindi mi sembra, ricordiamo, visto che siamo in sigla, venerdì 13, sabato 14, Residence di Ripetta, Sala Bernini, ci sarà questo convegno a cui parteciperò anch'io. Dirò anch'io la mia, avrò qualcosa da dire forse. Beh, grazie. Penso avrei molto da dire. Grazie Gianettore Gassani, a domani.